Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Milano, XIX secolo. Vita, morte e delitti di Antonio Boggia, il serial killer della Stretta Bagnera. 8 aprile 1862, 6 di mattina. Tra le strade di Milano viaggia un carro coperto da un telo nero. Dentro, il confortatore religioso, il condannato a morte e il boia. Il patibolo è nei campi tra Porta Vigentina e Porta Lodovica. L'intorno, già da qualche ora, si è raccolta una folla. Tra i tanti, anche ragazzi e donne con bambini. Il carro arriva, si ferma. La gente si zittisce. Una mano scosta il telo e da gradini scende l'uomo che tutti stanno aspettando. Antonio Boggia, il mostro della Stretta Bagnera. Boggia nacque a Como nel 1799 e da giovane si trasferì a Milano. Per anni fu un lavoratore, un marito e un parrocchiano esemplare. L'unica macchia era la passione per le bibite spiritose, gli alcolici, secondo il gergo del tempo. Dopo essere fuggito per problemi economici, rientrò a Milano nel 1946 e affittò un magazzino nella Stretta Bagnera, una viuzza appartata in centro. Ma i debiti continuavano a tormentarlo. La svolta arrivò nell'aprile del 1949. Un suo conoscente, Angelo Serafino Ribbone, scomparve. Attraverso degli atti notarili, Boggia ereditò i suoi risparmi, 1.400 lire, e prese il suo posto di lavoro. L'anno successivo scomparve anche un uomo d'affari, Giuseppe Marchesotti. Con lui, la somma di 4.000 lire che Boggia diceva di avergli prestato. A fine aprile del 50 non si ebbe più notizia anche di un fabbro ferraio. Si chiamava Pietro Maiazza, ma era detto il Bauscia per un difetto di pronuncia che lo faceva sputare quando parlava. Poco dopo, con un atto notarile, Boggia ne vendette il negozio. Per i 9 anni successivi, Antonio Boggia restò nell'ombra. Poi, nel marzo del 1859, l'incontro con la vedova Perrocchio. La Sciura era proprietaria di uno stabile in Via Nerino e Boggia ne diventò subito uomo di fiducia. 6 mesi dopo, però, dichiarò che la donna era partita per Como e cominciò ad amministrare lo stabile a nome suo. A interrompere questa ascesa fu l'esposto del figlio della Perrocchio, preoccupato per la scomparsa della madre. L'istruttoria partì nel marzo del 1860. Dopo diversi interrogatori, Boggia confessò. A uccidere la donna era stato lui. L'arma? Una scure. Per trasportare il cadavere in cantina lo aveva smembrato e infilato in una gerla. Ma il giudice istruttore non si fermò. L'anno successivo ordinò l'ispezione del vecchio magazzino della Stretta Bagnera. Ci vollero un paio di mesi, ma alla fine qualcosa emerse. Le ossa di un uomo. Poi un secondo scheletro. Subito dopo un terzo. Nessun dubbio. Erano Ribbone, Marchesotti e Meazza. Il processo contro Antonio Boggia iniziò il 18 novembre 1861, alla presenza di una folla di curiosi. Durante quegli 8 giorni Boggia raccontò tutto. I trucchi per convincere le vittime a seguirlo nella Stretta Bagnera, l'omicidio a colpi di scure del Ribbone, quello del Marchesotti, del Bauscia e della vedova Perrocchio, le truffe notarili per intascare soldi e proprietà di tutti. Le sue giustificazioni? Aveva la testa al vento, la testa gli gibillava. Sull'assassinio della Perrocchio dichiarò: «La donna mi trattenne a discutere della guerra che allora ferveva. D'un tratto mi cadde sotto gli occhi una scure e fui preso da un estro. Così brandì la scure e gli vibrai un colpo fortissimo al capo». Il presidente Zendrini lesse la sentenza 3 giorni dopo. Colpevole. La pena? La più dura. La morte. 8 aprile 1862, 6:15 di mattina. Un'alba gelida. Antonio Boggia sale gli scalini del patibolo. Sembra sicuro. Eppure, poco prima della fine, si ferma e si rivolge al boia. «Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando», dice. Il boia stringe il cappio. Boggia chiude gli occhi. La folla trattiene il fiato. Pochi minuti e il mostro della Stretta Bagnera penzolerà dalla forca. C'è tempo solo per l'ultimo singhiozzo, l'ultimo respiro. Alberto Paleari, in libreria con Il colore della vergogna. Todaro Editore, 200 pagine, €15,50.